Monelle, racconti giovanili di Devana. L'attentato. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Le mie lenzuola vanno a fuoco! La donna si sgolava dal parapetto della finestra mentre a fianco, fuori da un balcone, le lenzuola stese ad asciugare bruciavano allegramente. Sandrina ridacchiò e scappò lontana dalla finestra da cui aveva sentito le urla per rintanarsi in bagno a progettare la prossima malefatta. Aveva appoggiato il mozzicone di una delle 60 sigarette che ogni giorno fumava alle lenzuola stese al piano di sopra, sventolanti per un pezzetto davanti alla finestra del suo ufficio. Sandrina era una ragazza di quelle che apparentemente non avrebbero torto un pelo ad una mosca. Era minuta, graziosa e dolcissima. In ufficio era la mascotte, difesa e coccolata da tutti, proprio perché sembrava tanto vulnerabile. I colleghi le sbrigavano addirittura una parte del lavoro perché non si stancasse e assolutamente nessuno sospettava quanto in realtà fosse pericolosa. I suoi scherzi non avevano ancora provocato morti solo perché finora aveva avuto tanta fortuna, qualcuno o qualcosa era sempre intervenuto in tempo. Era strano come Sandrina riuscisse a nascondere così perfettamente la sua vera natura di teppista. Dava proprio l'impressione di un'angioletta, disponibile ad aiutare il prossimo, sensibile, anzi quasi sofferente per le ingiustizie della vita. In realtà aveva dentro di sé una voglia incontenibile di distruggere qualunque cosa in qualsiasi modo. Una cosa sola non aveva mai fatto, quella di provocare sofferenze alle bestie. Anzi, lei adorava gli animali, possedeva una voliera bellissima nel balcone della casa in cui viveva con la madre. Il suo tempo libero lo dedicava a chiacchierare con i suoi uccellini, a vezzeggiarli, a farseli saltellare sulle dita. Di recente, Sandrina aveva messo della colla a presa rapida negli ingranaggi della fotocopiatrice e nell'apertura dei computer in cui si infila il dischetto per il puro gusto di vederli esplodere. Per fortuna il tecnico aveva fermato le macchine un attimo prima che saltassero, staccando l'interruttore generale della luce e imputando il tutto ad un cortocircuito. Aveva anche aggiunto gli acidi che le donne delle pulizie usavano per pulire i water al preparato per il caffè nella macchinetta distributrice dell'ufficio. Voleva vedere tutti i suoi colleghi urlare per i dolori di ventre. Quel giorno, però, il primo che prese il caffè lo sputò immediatamente e avvertì i colleghi che la miscela doveva essere guasta, perciò che non bevessero. Così fu informata la ditta responsabile che da quel momento sarebbe stato cambiato il fornitore. In campagna aveva anche catturato due scorpioni e li aveva fatti scivolare nello scatolone dell'ufficio dove si teneva la carta per la fotocopiatrice. Da quello scatolone i colleghi prelevavano continuamente e prima o poi qualcuno sarebbe stato punto. Ma proprio quel giorno l'addetto al trasporto della carta usata all'impianto di riciclaggio per sbaglio caricò anche lo scatolone con gli scorpioni. Una volta nell'autobus stipato aveva pensato di dare fuoco alla tizia vicino a lei. Con quell'ammasso di persone in un baleno sarebbero bruciati tutti, mentre lei si sarebbe salvata buttandosi dal finestrino immediatamente. Ma i cerini che teneva in tasca si erano inumiditi e non riuscì ad accenderli. Qualcuno le fece addirittura notare, visti i suoi continui tentativi, che in autobus non si fuma. Era riuscita addirittura a raccogliere un'intera scatola di vespe. Scatola che confezionò con una bella carta da regalo e che consegnò ad un indirizzo qualsiasi, spacciandosi per una fattorina. Non aspettò di vedere l'esito della sua manovra, ma se lo avesse fatto avrebbe assistito ad una scena in cui un'anziana signora riceveva un pacchetto e lo lasciava incartato per aspettare il ritorno del figlio, la sera. Tanto io a queste cose non ci tengo, pensava la signora. Il figlio, rincasato dal lavoro, apriva il pacchetto e dentro trovava un'enorme quantità di vespe morte o agonizzanti per asfissia, che allibito si affrettava a buttare nel water. Intanto fuori le lenzuola bruciavano e con esse bruciavano anche i fili che le sostenevano, fino a staccarsi e precipitare giù, proprio dentro una pozzanghera che di recente un acquazzone aveva creato perpendicolarmente al balcone. In realtà Sandrina non era cattiva, era solo arrabbiata. Ce l'aveva col mondo intero. In qualche modo, in qualche momento della sua vita, aveva subito uno shock che rapidamente aveva intaccato il suo giovane e sveglio cervello, cominciando a corroderlo fino a farlo ammalare. Perciò gli scherzi, dapprima innocenti, si erano trasformati in dispetti e poi in veri e propri attentati alla salute pubblica. Sandrina non faceva caso a quel deteriorarsi del suo sistema nervoso. Lo subiva semplicemente, senza chiedersi cosa la spingesse ad azioni tanto pericolose. Non ne parlava con nessuno e tantomeno con se stessa. Sapeva solo che la riempiva di soddisfazione progettare qualche cattiveria ai danni del genere umano e come una drogata continuava a nutrire la sua mente di pensieri e azioni sempre più terribili. Se anche non andavano a segno, l'importante era averci pensato. Un tardo pomeriggio d'inverno, buio e piovigginoso, Sandrina uscì, come al solito, dall'ufficio per tornare a casa. Faceva sempre lo stesso percorso. Si fermava a guardare il fiume dal parapetto, contava i numeri civici degli edifici, contava i passi che la separavano dalla fermata dell'autobus, erano sempre 863. Quella sera, però, qualcuno l'aspettava. E quando lei varcò il cancello della fabbrica e scese in strada, cominciò a seguirla. Quando si fermò sul parapetto a guardare il fiume, il pedinatore la avvicinò e le offrì una caramella. Sandrina lo guardò senza stupore, non aveva paura di nulla e tutto la attirava. Ben inteso tutto ciò che non fosse regolare, aveva sentito mille volte che non bisogna accettare caramelle dagli sconosciuti e proprio per quello la prese e se la ficcò in bocca. Avvertì un sapore strano, non certo quello di una caramella e comunque non nuovo. Poco dopo tutto cominciò a girare. La mente le si fece grande, grande, il corpo non aveva più peso, vedeva con chiarezza scene del suo passato, sempre più indietro nel tempo, fino a quella sera. Sandrina era con alcuni ragazzi molto più vecchi di lei in una camera squallida e sporca di un appartamento di periferia. Faceva freddo e c'era poca luce. I ragazzi ridevano forte e si passavano una bottiglia dalla quale bevevano a turno. Lei si sentiva nervosa, avrebbe voluto scappare, ma quelli non la lasciavano uscire, l'avevano agganciata per la strada e trascinata a forza in quell'appartamento. Il fumo quasi le impediva di distinguere le facce. All'improvviso qualcuno la afferrò e le fece aprire a forza la bocca, premendole le mandibole, come si fa coi cani per far loro ingerire una pastiglia. Qualcun altro le infilò in gola una cosa che aveva un sapore strano. Sembrava proprio una pastiglia, ma non ebbe il tempo di rendersene conto perché subito cominciò ad avere vertigini. Le bruciava la gola e lo stomaco e le veniva da vomitare. Le facce intorno a lei si ingrandivano a vista d'occhio e tutti cominciarono a spingerle, a tirarla, gridando, ridendo, bestemmiando. Qualcuno poi si calò i pantaloni e le mutande e rimase lì davanti a lei, che si era accasciata in un angolo in preda alle convulsioni. Le dissero delle volgarità e giù a ridere, ma lei rimaneva ferma. Allora il ragazzo, che le aveva aperto a forza la bocca la prima volta, gliela fece aprire di nuovo. «Non ti piace questo uccello? Allora mangia quest'altro!» E le infilò in bocca qualcosa di molto più grosso di una pastiglia. Poi le fece chiudere violentemente la bocca e Sandrina sentì un crack e un sapore amaro. In bocca aveva qualcosa che sembrava fatto di pelo o di piume e del sangue le colava sul mento, si dimenò e sputò mentre i ragazzi ridevano sguaiatamente e sputò un uccellino spappolato. Vedendola stare così male, i suoi carcerieri si erano poi spaventati, l'avevano caricata in macchina e abbandonata davanti a un pronto soccorso. Lei era stata male per molti giorni, in bilico tra il sonno e la veglia. Le erano venute macchie su tutto il corpo e la sensazione di bruciore e vomito perdurava anche in stato di incoscienza. Poi era tornata in piedi, ma da allora era cominciata la sua passione per gli scherzi. Non ricordava nulla di quella sera. Anche questa volta, passato l'effetto dell'acido che il tizio le aveva offerto, sperando in una nuova cliente, non ricordò nulla. Si trovò senza capire come mai rannicchiata sotto una siepe vicino al parapetto del fiume. Era quasi l'alba. A Sandrina gli acidi scatenavano questo effetto allergico esplosivo. La seconda dose però fece peggiorare velocemente la sua mente già vacillante e nel giro di poche ore cominciò a progettare, in preda a un febbrile lavorio di meningi, qualcosa che facesse saltare in aria l'intera città. Sarebbe morta anche lei? Non aveva alcuna importanza, anzi, sarebbe stato ancora più stimolante il progetto. Lavorava in un'azienda chimica dove venivano usate tra le altre sostanze altamente infiammabili e tossiche. Conosceva benissimo tutti i corridoi e i sotterranei perché durante la pausa del pasto, visto che mangiare non le interessava poi tanto, anziché andare alla mensa, faceva lunghe escursioni a caccia di segreti e di avventure. Sapeva anche che giù, nei magazzini, c'era una porta non chiusa a chiave, era la porta di un ripostiglio nel quale venivano depositate le taniche di acido, vuote. Quotidianamente una tanica di acido veniva vuotata nell'apposito miscelatore e poi sistemata in quel ripostiglio. Sandrina cominciò a frequentarlo quotidianamente e si accorse che ogni giorno c'era una tanica vuota in più. L'ultimo del mese ne contò 30 e l'indomani vide che erano sparite. Indagando meticolosamente, scoprì che nella notte tra l'ultimo giorno del mese in corso e il primo di quello successivo, un tecnico prendeva le taniche vuote e le portava via e ne lasciava in un altro magazzino 30 piene di acido, che venivano poi vuotate una al giorno. Scoprì anche che il cambio si effettuava alle 6 del mattino. Con queste informazioni il suo piano cominciò a prendere forma. Aveva a disposizione per una notte al mese 30 taniche che, opportunamente riempite di benzina, avrebbero potuto essere utilizzate per dar fuoco agli impianti contenenti le sostanze tossiche e infiammabili. In questo modo una nube di gas micidiale si sarebbe creata sopra la fabbrica in fiamme e sarebbe poi stata trasportata dal vento sopra la città e attraverso le fessure, le serrature, i buchi delle porte, sarebbe entrata nelle case, nei polmoni degli ignari abitanti. Così, il mese successivo, Sandrina cominciò a riempire i contenitori di benzina. Anziché andare a lavorare in autobus, prese a muoversi con il motorino. Si portava una grande sacca sportiva di quelle che si usano per andare in palestra. Disse ai colleghi di essersi iscritta a un corso di ginnastica che cominciava subito dopo la fine dell'orario di lavoro, perciò si doveva cambiare nella toilette dell'azienda e partire per la palestra avendo già indosso la tuta. Così, ogni sera, 10 minuti prima della fine del suo turno, si andava a cambiare. Usciva dall'ufficio, passando per corridoi deserti che nessuno utilizzava, arrivava al ripostiglio, infilava una tanica nella sacca, tornava indietro e entrava nella toilette. Si infilava gli indumenti della palestra e rientrava per andarsene poi con i colleghi. Fuori dalla fabbrica, inforcava il motorino, si dirigeva a un self-service di periferia, riempiva la tanica e poi andava a casa. Il mattino dopo, passando per l'uscita di sicurezza, depositava nel ripostiglio la tanica piena e poi tornava fuori. Faceva il giro e arrivava col motorino davanti all'ingresso principale, dove si davano appuntamento tutti i colleghi per entrare insieme chiacchierando. Nessuno si accorgeva che i contenitori nel ripostiglio erano pieni di benzina. Infatti, quello era considerato un locale del tutto innocuo, tanto da lasciarne la porta aperta e senza sorveglianza. In fondo doveva contenere solo taniche vuote. Ci entrava esclusivamente il tecnico che una volta al mese andava a prendere le taniche per portarsele via. Sandrina continuò sistematicamente con questa manovra. E l'ultimo giorno del mese aveva accumulato 30 taniche di benzina. Quella notte avrebbe agito. Aveva tempo fino alle 6 del mattino per buttare la benzina sugli impianti e appiccare il fuoco. Così, quel pomeriggio, chiese al capo ufficio di poter uscire qualche minuto prima. Naturalmente le fu accordato il permesso dal momento che anche il suo capo, come tutti lì dentro, provava grande simpatia per quella ragazzina magra dagli occhi grandi. Sandrina uscì, dopo essersi cambiata come al solito, prese il motorino e si allontanò. Lo lasciò in un vicolo e tornò indietro a piedi, rientrando dall'uscita di sicurezza e nascondendosi nel ripostiglio. Dopo un po', sentì dalle grate i colleghi che uscivano per tornare alle loro case e il rumore del cancello elettrico che si chiudeva per la notte. Il guardiano notturno serrò dall'interno i portoni e si ritirò nella sua stanza a guardare la televisione, preparato a dare l'allarme in caso di tentativi di intrusione dall'esterno e assolutamente ignaro che il pericolo fosse già dentro la fabbrica. Sandrina, immobile e silenziosa nel buio, lasciò passare il tempo riflettendo e studiando le mosse che avrebbe compiuto. Ripassò mentalmente i percorsi, avrebbe atteso le 4 del mattino, l'ora in cui il sonno è più profondo, poi ad una avrebbe vuotato le taniche sugli impianti. Infine avrebbe buttato un cerino acceso sulla benzina e boom! Sarebbe saltato in aria la fabbrica. Sì, era perfetto, sarebbero morti tutti. La città intera ridotta ad un mucchio di cadaveri asfissiati e intossicati. Sandrina rideva tra sé e sé mentre il tempo passava, immaginando lo sterminio. Anche sua madre sarebbe morta. Anche i suoi uccellini. I suoi uccellini. Oddio, no, quelli no. Si era dimenticata di loro, ma non voleva che morissero. Oh, i pensieri cominciarono ad accavallarsi mentre sudava. Ormai erano quasi le 4. Doveva uscire, andare a casa a liberare gli uccellini perché potessero volare via, via. E salvarsi, poi doveva tornare lì di corsa per portare a termine il suo piano. Fu assalita dal panico. Non avrebbe fatto in tempo. Oh, e poi era impossibile uscire dalla fabbrica senza farsi scoprire dal guardiano. I portoni erano tutti chiusi dall'interno e lei non aveva le chiavi. Al buio uscì dallo sgabuzzino e si diresse di corsa verso le scale, cercando disperatamente di pensare a un modo per uscire, ma il panico, la fretta, il buio la fecero inciampare sull'ultimo gradino. Cadde all'indietro per molti metri e sbatté la testa contro la leva dell'allarme. La leva non si mosse, ma sfondò il cranio di Sandrina, che rimase a terra morta sul colpo. Tutto restò tranquillo. Il guardiano davanti alla TV, le taniche nel ripostiglio, gli abitanti della città nel loro sonno. Alle 6 arrivò il tecnico che trovò il cadavere di Sandrina sulle scale. Immediatamente avvertì il guardiano che chiamò la polizia. I fatti furono ricostruiti e il giorno dopo sui giornali apparvero i seguenti titoloni: giovane impiegata sventa la catastrofe, il colpevole scoperto dalla vittima la colpisce al cranio ammazzandola sul colpo e poi fugge. Poi la notizia proseguiva spiegando che il pazzo omicida scoperto da Sandrina aveva ammassato taniche di benzina con l'intenzione di dare fuoco alla fabbrica. I colleghi e il capo ufficio della vittima, intervistati dai cronisti, dichiararono che probabilmente la ragazza, andando a cambiarsi per la palestra, aveva sentito rumori sospetti ed era scesa a controllare, scoprendo il colpevole che l'aveva ammazzata per impedirle di dare l'allarme ed era poi fuggito dall'uscita di sicurezza, rubando un motorino, combinazione proprio quello di Sandrina, e abbandonandolo in un vicolo non lontano. Loro, sapendo che Sandrina aveva chiesto qualche minuto di permesso e pensando che fosse già andata via, non l'avevano aspettata. Al funerale di Sandrina, colei che aveva impedito un genocidio, l'eroina della città, centinaia di persone sbigottite deposero fiori sulla piccola bara. Il sindaco pronunciò un discorso commosso e i colleghi, in lacrime e inorriditi di fronte a tanta crudeltà, proposero una raccolta di fondi intitolati alla loro beneamata, da devolvere in beneficenza. Intanto la polizia continuava a cercare l'assassino. Fine.